Un solo cuore, Giuseppe Cruciani, quando interviene tu batti le mani, ma poi se ascolti David Parenzo ti sembra che abbia parlato uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. In una foresta del centro Katanga, che era la tribù dei Pacaputang. L'era una tribù dei neger del Menga, grande ciula e balabiot. O vaca putanga, o vaca putanga, ma vada che rassa. Vabbè Parenzo, la notizia di oggi è rilanciata e annunciata urbi e torbi dalla zanzara, cioè le dimissioni di massa dei deputati e dei senatori del PDL questa sera a partire dalle 19. Una buffonata, un blef, vedremo. Però mi ha incuriosito che cosa, cari ascoltatori, il fatto che la famiglia della Chieng, la numerosissima famiglia della Chieng nel Congo, ha realizzato una specie di rito, una preghiera collettiva con il papà della signora Chieng. Certo. Per fare che cosa? Dillo tu, perché sei a conoscenza di questa vicenda, sei a conoscenza di questa storia. Beh, per tirar fuori il maligno da Calderoli, sostanzialmente, per estirpargli il male che c'è dentro. Che non con la foto, cosa... con tanto di foto di Calderoli, o sbaglio? C'era una bella foto di Calderoli. C'è il capo tribù, che è il padre della ministra. Ma della cosa pazzesca, ministra. Dai. No, no, cosa pazzesca sei tu. Ma che dai, continui a sottolineare è una mezza, è una mezza buffonata, dai, è una mezza buffonata. No, la buffonata è il rispetto delle tradizioni degli altri, perché dai, una mezza buffonata, dai, ricatto, dai, perché una mezza buffonata semmai sono le dimissioni di massa, sono la queste, quelle sono mezze buffonate. Sentiamo un attimo di sensibilità, di storia, tradizioni. Ma quale tradizioni? Costumi. Ma senti, viva la Chieng, ministro straordinario negro. Aspetta. Il primo negro al ministero. Bravo, bravo. Chieng, sei con noi, la zanzara è con te. Non è vero, tu sei con lei. Cioè, aspetta un attimo, aspetta che un giornalista di oggi è andato lì, del settimanale Oggi. La cerimonia è finita. Chieng porta in mezzo alla gente la benedizione degli antenati. Quando pianta la lancia nel terreno, i tamburi tacciono. Inizia la parte politica della cerimonia. Viene letto un messaggio di benvenuto, ma prima che Chieng possa rispondere, appare un'immagine di Roberto Calderoli, che da queste parti non gode in molte simpatie per aver paragonato Cecil Chieng, figlia del capo, a un orango. Dai su ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Dai su! Parenzo, ma non è tradizione, questa qua è una buffonata, dai, con la foto buffonata, di... Una buffonata è molto brutto quello che dici, perché è una buffonata allora quando tu festeggi il tuo compleanno, che magari lì non si festeggia. Infatti non lo festeggio. Per loro magari può ma essere detto questo, dai, tirare fuori il maligno da Calderoli, dai. Il Natale, cosa che invece non è il Natale, una buffonata, e loro non si permetterebbero mai di dirlo, sì, che è una buffonata. Vabbè, quindi ci vuole c'è rispetto tempo, e c'è tempo, tutta c'è tempo. Questa puntata, sì, a scoprire le tradizioni di questo, vabbè, popolo. Dovremmo c'è fare tempo. Questo noi oggi. Tirate via la voce a questo un attimo. Oh, Barbara Berlusconi ieri sera a Ballarò, le poche cose strappate, diciamo, in questa intervista a Barbara Berlusconi, ripete questo concetto fondamentale, è perché due governi con lui hanno fatto se lo considerano un criminale. Che cosa pensa, che cosa risponde a quelle forze politiche che vorrebbero un'immediata uscita di scena di suo padre? Io penso che alcune delle forze politiche siano in totale confusione in questo momento. E se ritengono che Silvio Berlusconi sia un delinquente, per quale motivo hanno deciso di fare con lui gli ultimi due governi? E poi ci credete o no al fatto che annuncia che non farà politica? Lei ha anche questo parlare un po' di politica, che vuol dire che alla fine... pensa anche lei di entrare, insomma, di fare politica attiva? Che fai alla sta domanda? No, questo non è nel mio orizzonte. Ci sono molte persone che fanno politica e tanti giovani capaci che intendono occuparsene e io confido in loro. Ma che ci ha messo 3 ore a fare la domanda? Farà o non farà politica? E ci ha messo 4 ore, sembrava timorosissimo. No, è molto bravo Scazzola, è un amico. Ma non lo so, bravo, Scazzola, come si chiama? Non lo so, ma non mi interessa. Scazzola. Ma non è il nome non è importante. Oh, abbiamo scoperto nuove perle della signora Boldrini. La signora Boldrini, qualcuno mi ha criticato tantissimo per le cose che ho detto ieri, ma io lo confermo al 100%, Allora, vediamo subito, mandiamo questa sullo yogurt, il computer, quest'altra puttanata qui, dai. Sullo yogurt. Al gran capo. E ancora di più gli spot in cui vediamo che il corpo della donna viene usato per pubblicizzare che cosa? Viaggi turistici, yogurt, automobili, computer. Ma in quale altro paese questo verrebbe tollerato? Tra una dura femminista ed un morbido maschista. Bah! Ma di cosa stiamo parlando, direi io? Il corpo della donna, ci sono delle regole. Se uno. Vabbè, ma lasciamo perdere, su, lasciamo perdere. Abbiamo qui un grande ospite, Guido Barilla, presidente della Barilla. Buonasera. Buonasera, buonasera. Oh. Come sta? Come sta? Guido Barilla. Va bene. Allora, grazie. Molto stimolato dalle cose che dice la signora Boldrini. Sì, appunto, no, noi sappiamo che lei è stato molto stimolato da questa cosa qui, perché sembrava proprio un attacco diretto a tutti quegli spot. Voi ne fate tanti, non solo voi, ma in particolare voi, in cui c'è la figura della madre, la figura della della compagna, della che serve la colazione, magari serve la pasta, non mi ricordo tutti gli spot, mi perdoni, signori. E tutto questo genere di cose. Vabbè, insomma, perché questo ruolo? Innanzitutto, cosa ne pensa di questa uscita da Boldrini, così secco? Io penso, innanzitutto, la pubblicità è una cosa molto seria e va discussa in genere dalle persone che capiscono qualcosa di pubblicità. La pubblicità è un elemento importante per le imprese, i prodotti alimentari, ma non solo, sì, anche quelli di prima necessità. E non solo. Lei sta dicendo che sostanzialmente la Boldrini non sa niente di pubblicità e non dovrebbe parlare di pubblicità. Direi di no, dalle cose che dice mi sembra di no, e anche mi sembra di capire che non capisce bene quale in realtà ruolo la donna svolge in pubblicità. Che ruolo svolge? La donna... Tanti ruoli in realtà, devo dire, la pubblicità dà un sacco di lavoro, lo dico per motivi anche familiari, la pubblicità dà un sacco di lavoro alle donne, dunque che vuole la Boldrini da questo punto di vista? Ma non c'è dubbio, ma poi nobilita la figura della donna sotto 100 aspetti, perché la donna è madre, nonna, amante, cura la casa, cura le persone care, oppure fa anche altri gesti o altre attività che comunque ne nobilitano il ruolo. Ma lei, quando ha sentito, è una fondamentale persona per la pubblicità, sì, non solo italiana, certamente. Senta, quando in ha sentito, in tutti i paesi del mondo la donna, sì, è estremamente usata. E quando lei ha sentito queste frasi, che ha pensato? Adesso me lo dica sul serio, è scema, è stupida, ma perché parla di pubblicità? Non ci rompa le scatole, qualcosa avrà pensato, signor Barilla. Io ho pensato che il presidente della Camera, sì, che si abbassa a chiacchierare di pubblicità quando peraltro non ne ha le competenze, è abbastanza patetico. Questo già diciamo è abbastanza, è diciamo. Patetico, certo. Scusi un attimo, io voglio dire una cosa: con tutti i problemi che abbiamo in Italia, l'ho detto già ieri in maniera vigorosa, lei sicuramente mi ha sentito. Con tutti i problemi che abbiamo in Italia, noi abbiamo il presidente della Camera che va a fare una prolusione. Già bisognerebbe parlare dei convegni, eccetera, in cui parla della pubblicità, in cui ha visto una che serve a tavola. Io vado ai pazzi, non ci ho dormito la notte. Lei lo sa, signor Barilli, io non ci ho dormito la notte su questo. Ma non solo, ne penso che ne parli. E non comprende in realtà che la figura della donna in pubblicità è una figura fondamentale e non attacca assolutamente la donna nella sua entità sacra. Le ha dato fastidio il fatto che sia il presidente della Camera, cioè il ruolo istituzionale, cioè se vuole dire certe cose le dicesse, cioè, quando uno è presidente della Camera non è che può attaccare le aziende che fanno pubblicità, scusi. Penso di no, anche perché... pensa di no cosa, scusi? Penso che non possa dirlo, si possa addentrare in questi argomenti. Anche perché la comunicazione è una leva fondamentale per il commercio, sì, e ognuno la fa come meglio crede e come meglio può, seguendo le regole. Ci sono i giurì, certo, che sì, controllano la qualità dei comunicati. Se qualcuno fa male, il giurì lo riprende, viene ampiamente e molto multato, e ci sono gli organi che gestiscono. Che non è che può decidere lei la pubblicità, non è che può decidere il presidente della Camera la pubblicità che va bene. Altro, ma ci mancherebbe altro. Andiamo su. Parenzo, che vuoi chiedere? Volevo capire dal signor Barilla, che saluto con grande affetto, volevo capire se lui affetto, tu saluti tutti con affetto, ma manco lo conosci, cioè saluti la gente con affetto. Con Barilla abbiamo mangiato un sacco di volte insieme lì con quel mulino che girava. Ma che stai dicendo? Quando mai? Sacco di volte dove c'è Barilla c'è casa. L'unica roba che volevo dire è se lui immaginasse in futuro una pubblicità con quale politico prenderebbe come testimonial, oppure gli fa fare brutta figura i suoi prodotti. I politici sono talmente sputtanati che non le vorrebbe vedere. Sicuramente Berlusconi, che è stato il grande comunicatore di questi 30 anni, lo vorrebbe testimonial di che dal cosa? Piacere, delle lasagne. Dal piacere che possa suscitare questa, diciamo, affermazione in alcune persone. Beh, no, ma lo prendo perché sa dire le cose molto meglio di tanti. Lei mi ha chiesto comunicatore. Beh sì, certo, è chiaro. Eccetera. Poi dopo sui prodotti da comunicare dovrei pensare. Renzi sarebbe bravo. Cioè, Berlusconi cosa potrebbe comunicare secondo lei? Berlusconi può comunicare più o meno tutto. Renzi potrebbe avere un ruolo nelle sue. Renzi ha un ruolo. Io penso che. Lei lo voterebbe? Lo voterebbe? No, questa è un'altra faccenda. Chi voto io sono fatti miei. E non... no. Io faccio un altro mestiere che voterà. Vabbè, voterà come un cittadino normale, certo, no? Io voto come cittadino. Ma se ne sono dette tante su di lei, che addirittura poteva essere a un certo punto l'erede di Berlusconi, addirittura sì, qualcuno. Non mi è mai stato chiesto da nessuno. Io evidentemente non l'avrei fatto neanche se me l'avessero chiesto, perché non. E è... esclude totalmente l'idea di fare politica? Beh, innanzitutto io non potrei farla perché non ho il tratto personale. Perché dico sempre più o meno quello che penso senza dilazione, quindi non avrei le capacità di gestire. E poi non ha nessuna intenzione. Una tale complessità, e poi non ho sicuramente intenzione di farlo. Guido Barilla, che avete sentito, non dico che sia arrabbiato, però sì, diciamolo pure, no? Se è arrabbiato per questa sortita del presidente della Camera Boldrini, lasciateci fare il nostro lavoro, non ci rompete le scatole, già ci sono tanti problemi, pure la pubblicità delle donne, e andiamo. Le zanzare di casa mia. Non può essere concepito normale uno spot in cui i bambini e il papà sono tutti seduti e la mamma serve a tavola. Guardate, merita una riflessione questo. La cruda verità. E che riflessione merita? Ma quale riflessione? Siamo qui 800240024 con Guido Barilla, presidente del gruppo Barilla. E senta, le voglio chiedere una cosa. Mi è venuto in mente durante la pubblicità, Parenzo, questa è una domanda interessante, anche la tua lo era, naturalmente. Dici sempre un sacco di puttanate, però questa cosa qua non era male, eh. Quale politico? No, ma io anche la Kench immaginavo lì in una pubblicità del signor Barilla, magari con una famiglia, dici, per dare l'idea di una famiglia multirazziale, no? Per portare la pace, esatto, come segno dell'integrazione, bellissimo, a fianco al couscous, non so se si mangia il couscous da quelle couscous? Parti. Che c'entra il couscous? Non lo so, ho detto non lo so se in Congo si mangia il couscous. Perché non avete pensato a una famiglia o state magari... ma noi ci abbiamo pensato molti anni fa, a metà degli anni Ottanta abbiamo fatto un film con una cinesina, una ragazzina che mangiava la pasta e che la succhiava, anche succhiava lo spaghetto in bocca, era stato uno spot molto famoso. Magari una famiglia gay, perché non fate un bello spot con una famiglia gay? No, diciamo che noi abbiamo una cultura vagamente differente, per noi noi il concetto di famiglia sacrale rimane uno dei valori fondamentali dell'azienda. La salute, la famiglia, il concetto di famiglia. Cioè non fareste mai uno spot? Il concetto, non lo faremo, perché la nostra è una famiglia tradizionale. Qualcuno può ma la pasta la mangiano anche, ma noi preferiamo gay, va bene, ma se gli piace la nostra pasta e la nostra comunicazione la mangiano, se non gli piace e non ci piace quello che diciamo faranno a meno di mangiarla e ne mangeranno un'altra. Ma uno non può piacere sempre a tutti perché piacere. Cioè, lei non farebbe mai uno spot? Lei non farebbe mai uno spot con una famiglia omosessuale seduta a un tavolo? No, non lo farei, ma non per mancanza di rispetto agli omosessuali, che hanno diritto di fare quello che vogliono senza disturbare gli altri, ma perché non la penso come loro e penso che la famiglia a cui ci rivolgiamo noi è comunque una famiglia classica, dove tra l'altro la donna, per tornare all'argomento di prima, ha un ruolo fondamentale, che è la madre, che è il centro concettuale di vita strutturale di questo organismo. Ma poi non è detto che la madre, una volta che serve la colazione, come in alcune delle vostre pubblicità, non se ne va a fare un lavoro da manager, magari, scusi, no? Cioè, ma ci mancherebbe altro, ma sua moglie no, non fa uguale, mia moglie tutte le mattine vivo da fa solo, la colazione per la famiglia e poi va a fare il certo, ma no, no, ma infatti siamo alla follia. Senta, però è interessante quello che mi ha detto lei, la famiglia gay no, però io rispetto, però qual era la frase? Mi sono scordato. No, io ho detto che io rispetto tutti, che facciano quello che vogliono senza infastidirgli gli altri. Che vuol dire senza infastidire gli altri, scusi? Beh, ognuno ha diritto a casa sua di fare quello che vuole senza disturbare le persone che sono attorno, rivendicando più o meno diritti che sono più o meno, diciamo, leciti. Per esempio, sì, adesso qui ci addentriamo su fatti che sono un po' lontani dalla pubblicità, però che sono un fondamento comunque dei valori che lei è contro il matrimonio omosessuale, per esempio, contro le unioni. No, il matrimonio omosessuale, pensi che io lo rispetto, perché tutto sommato riguarda le persone che vogliono contrarre matrimonio. Io una cosa che non rispetto assolutamente è l'adozione nelle famiglie gay. Ah, l'adozione. Perché questo riguarda una persona che non sono le persone che decidono. Però lei sa benissimo che i figli nati da famiglie omosessuali, ci sono tantissimi esempi, possono crescere tranquillamente, invece possono crescere male. Certo, persone che crescono tranquillamente. Devo dire che io, che sono padre di alcuni più plurimo padre, e so le complessità che ci sono nel tirare su dei figli, spesso mi domando quali sono le complessità, già che ce ne sono tante così, quali sono le complessità di tirare su dei figli con una coppia dello stesso sesso. Però non capivo, capivo l'espressione non disturbino gli altri, purché non disturbino gli altri? Rispetto tu. Un essere umano è un essere che può essere disturbato dalle decisioni di altri. Ho capito. Non so come lei. Senta, lei, tornando alla Boldrini, ci può essere pure un fatto, siccome la cosa è diretta chiaramente ad alcune pubblicità, non è che vi danneggia pure, cioè danneggia l'economia, in qualche modo vi danneggia anche dal punto di vista industriale, crea un danno o no? No, devo dire che danneggia se stessa una persona che dice delle cose del genere, perché le persone sono molto, le persone reali quando vanno a comprare i prodotti sono molto lontano da quello, cioè si rende ridicola, dice lei, no? Sì, che vengono detti nei sedi non opportune, perché la gente poi va dalla qualità dei prodotti al costo dei prodotti, ai servizi che i prodotti danno per soddisfare i bisogni e a tutto il resto sono frottole. Senta, lei darebbe un consiglio diciamo a Marina Berlusconi, che è un industriale come lei, diciamo una manager diverso in altri settori ovviamente, con altre competenze eccetera, ma di entrare in politica oppure no, oppure di lasciar perdere? Di star fuori. E a Barbara Berlusconi? Di star fuori anche lei. Di star fuori, Perché? Perché poi ti massacrano, perché poi si scatenano, ti ammazzano. Berlusconi non appartengono a quel mondo, fuori. Ma Berlusconi è un perseguitato secondo lei? Beh, Berlusconi ha sicuramente sofferto della sua posizione per molti anni, poi dopo no, è un perseguitato dai magistrati, cioè i magistrati se la sono presa con lui, hanno scatenato un'ordalia di processi nei suoi confronti da quando è entrato in politica. Lei è di questa scuola? Io per esempio in parte lo sono. Diciamo che si sono particolarmente dedicati a Berlusconi. Quando lui dice sono un perseguitato, un po' c'ha ragione. Beh, si sono molto dedicati a Berlusconi, non c'è dubbio. Poi forse lui ha fatto cose che poteva evitare di fare, ma che ci sia un'attenzione particolare verso la persona e le aziende è indubbio, ma è sotto gli occhi di tutti, lo vedono tutti i giorni. E quel reato, quel reato per cui è stato condannato è un reato che possono commettere tutte le aziende, quello delle sovraffatturazioni, la frode fiscale, c'è una cosa abbastanza comune, molti lo dicono, in realtà questo io non lo concepisco. A parte che io non conosco i fatti, ma però questo è inammissibile da parte di chiunque. Credo che con tutti i problemi che noi abbiamo dobbiamo rigare dritto, e però attenzione, nel rigare dritto dobbiamo continuare a chiedere al paese dove viviamo di rigare dritto anche lui. Ma lei ha paura dei magistrati? No, perché non io in realtà... No, ma in generale l'imprenditore devono avere... della vecchia idea che male non fa, paura non avere. Grazie, buona serata. Tutto sommato rende. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. È ancora a casa, Evo. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Merita una riflessione questo. C'è l'aria nel letto. Mi graffia tutto, cosa ti devo fare? Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa? l'epopea disastrosa di Luca Barbareschi con le Iene. Beh, cari amici, ieri la Zanzara protagonista della prima puntata delle Iene, perché il signor Barbareschi è stato praticamente sputtanato. Cosa aveva detto da noi, a parte il fatto che ha picchiato gli operatori, i giornalisti, gli inviati delle Iene quando sono andati a chiedergli conto del fatto che invece di fare il deputato faceva sostanzialmente il produttore e l'attore, perché questo, no, di questo si stava parlando. Di questo si tratta. Di questo si tratta, andando a ridurre all'osso la questione, al di là dei calci, delle botte, del modo di comportarsi, la questione era questa: perché uno che fa il deputato non va alla Camera e invece di andare alla Camera va a fare l'attore, il produttore? E vabbè, però poi a noi aveva detto, perché ti ricordi, aveva preso un cellulare di uno delle Iene, eccetera, eccetera. Sentiamo. Ma questo famoso telefonino che appartiene ad uno degli inviati delle Iene, esistono? Se ce l'hai in tuo possesso o no? Io non ho mai visto un telefonino, non conosco. Dicono che tu sei andato in Cina a girare un film e che non vai alla Camera. Effettivamente a giugno hai il 100% di assenze, caro Luca, com'è possibile? È stato poco questo mese, purtroppo. E come mai? Perché ho dovuto fare dei giri per la mia famiglia. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? E invece? Vai avanti tu così. Barbareschi va via e allora il nostro autore tira fuori il suo iPhone per riprendere la telecamera distrutta. Barbareschi glielo strappa dalle mani e ci fa cacciare fuori dai suoi collaboratori. Ecco qualche istante dopo l'aggressione le immagini riprese con il mio cellulare, l'unico mezzo che c'era rimasto a disposizione per filmare. Guardate cosa è rimasto di questa telecamera. Sembra che ci sia passato sopra un camion, invece sono passati sopra i piedi dell'onorevole Barbareschi. Appena ci ha visto, che ha fatto? Ci ha aggredito, ci ha strappato la telecamera e calpestandola con le scarpe l'ha letteralmente distrutta, guardate. E il nostro autore è stato ferito, guardate, cioè in seguito all'aggressione di Barbareschi si è tagliato, ecco purtroppo il sangue. L'onorevole Barbareschi ha anche sottratto il cellulare al nostro autore. Questo cellulare è scomparso. Che cosa sei riuscito a trovare? Vabbè, lasciamo perdere Barbareschi, che ormai è una storia morta, finita, morta, morta. No, non è più deputato. Anche lui è. Lui non è più, non ci dà più il suo contributo da politico, è tornato a fare quello che sa fare, cioè l'attore. Quindi grazie, arrivederci, signor Barbareschi. TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Riunione dei gruppi PDL con Berlusconi, sospesa la manifestazione di sabato, ma torna l'ipotesi di dimissioni di massa. Letta, la stabilità politica è cruciale, dobbiamo portare i tassi al 2%. Su Telecom il governo vigilerà su occupazione e rete. Telecom agli spagnoli, Copasir, sicurezza nazionale a rischio, governo studia come difendere la rete, Bernabé non sapevo niente, CGL, CISL, Will, Letta ci convochi subito. Alla Camera pioggia di emendamenti al decreto legge sul femminicidio contro la violenza alle donne, un palcoscenico a piazza Montecitorio. Visita di Alfano in Val di Susa al cantiere della TAV, lo Stato difende le sue opere, dice il ministro. Vattimo, indagato per una visita in carcere con alcuni no TAV. Gli ispettori dell'ONU di nuovo in Siria, il presidente iraniano Rouhani alle Nazioni Unite dice l'olocausto ci fu ed è stato un crimine. La grande bellezza di Paolo Sorrentino rappresenterà l'Italia all'Oscar. Non mi aspetto nulla, dice il regista, ma farò di tutto per arrivare la notte delle stelle. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, why don't you go home? Non mi molesti moschito. Certo che povero Baldelli, non ha appena fatto in tempo a diventare vicepresidente della Camera, signor Baldelli, che è già tutto finito. Che già sembra che poi in Italia sembra tutto finito con le dimissioni di massa che ci saranno questa sera, anticipate dalla Zanzara, di senatori e deputati del PDL, del PDL. E poi che succederà? Bah, chissà, perché poi le dimissioni vanno accettate. Vabbè, guarda, se si dimettono tutti, a Baldelli potremo offrire noi un lavoro, signor Baldelli. Beh, sì, ma la cosa incredibile è che fanno Baldelli vicepresidente. Vicepresidente di chi? Di una persona che lui ha sfottuto sostanzialmente, ha imitato. Sentiamo. Non mi molesti moschito, Just let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Arriva, eh. Why don't you go home? Bianca. Bianca. Romano Prodi. Marini. Rodotà. Raffaello Mascetti. È la Boldrini che estrae i nomi dei votati alla presidenza della Repubblica. C'è ancora un pezzo di Boldrini? Baldelli Boldrini, sentiamo. Nulla. Ro. Dota. Baldelli. Bianca. Beh, è stupendo, stupendo. Oh, la confessione del deputato 5 Stelle, considerato il più bello della compagnia dei 5 Stelle, Di Battista, Romano, che dice sul finanziamento, cioè viene notato più per il fatto che è piacente, bello, un bel ragazzo, altro così, per poi un'attività, insomma, che è quella che è, insomma, 5 Stelle sono irrilevanti. E infatti lui cosa dice? Yeah, facciamo tutto quel che possiamo fare dal punto di vista istituzionale, interrogazione parlamentare, interpellanze, quello che volete. La mia sensazione è che non servono a un cazzo. Lo so. Bravo, ok? Io le palle non le dico. Quando abbiamo. Dobbiamo mandare qualche scontro, per esempio Mancini, ma chi è Mancini? Mancini Malan, ah, Lionello Mancini Malan, giornalista del Sole 24 Ore, ha scritto un libro sui magistrati, Malan, solito Malan, sempre ospite qui a Radio 24, tranne che qui alla Zanzara, noi siamo fieri di questa cosa qua però. Commento l'intervista di Berlusconi in cui dice a Santoro, io se uno viene pescato a fare l'evasione fiscale deve andarsene, commenti questo? Faccia sentire, qual è il suo commento se viene, dopo le tre righe del 71? Se le fa, se viene pescato, se ci sono delle prove. Quando non ci sono delle una prove. Una condanna definitiva quando non so ci sono. Ci sono delle prove. Ci sono delle prove. No, se non ci sono delle prove, io mi permetto di credere a quello che vedo e non a quello che è scritto nella motivazione della sentenza, che non ha a che fare con gli atti del processo. Siamo qui. Dove andiamo? Andiamo a Giuseppe, provincia di Chieti. Ah, buonasera dottor Cruciani, anzi dottore Cruciani. Sì, allora che c'è? Chiuda quella porta del bagno dove trasmette il suo aiutante, che la puzza di quello stronzo di merda si sente fin qua. Sì. Me lo chiude quella porta? Sì, sì, la chiudo. Quindi l'avete ristrutturato il bagno? Ma quale bagno? Giuseppe, no, ma il bagno bisogna ristrutturare la sua testa qui, no? Il bagno. E poi lei perché non dici che è un raccomandato di ferro? Anzi, è un raccomandato del cazzo. Sì. Ah. Ma da chi sarei raccomandato? Ma dove si tratta questo signore? Ma perché non lo dici che è raccomandato da un politico oppure da qualcuno di Confindustria? Chi l'ha raccomandato a lei? Qual è il suo curricula? Ma di che stiamo parlando? Allora, sai che cosa c'ha scritto lei nel suo curricula? Ma che ne so, allora, sono laureato con una sola T, dottore. Poi mi faccio canne a gogo, sì. E terzo punto, mi faccio frequento canne, assiduamente sì. Le puttane con qualche salto ai trans. E come l'hanno fatto a prendere a lei? Mi spieghi lì, come l'hanno fatto? Guardi, allora le dico una cosa. Scusa, voglio capire questo, come si fa, come un esperimento di laboratorio questo signore, come si fa a vivere con tanta merda nella testa? Questa è una domanda che mi piacerebbe. Ma merda ci sarà lei? Nella testa, come si fa a vivere? Lei è un cadro scientifico? Anzi, lei è mai stato da signor Piero Angela? Lei è un bolscevico, comunista di merda, Zerbino, sciacquino certo. E mezzo ricchione, ok? L'hanno mai portato nella trasmissione del signor Piero Angela, volta. Lei? L'hanno mai portato da Piero Angela come caso umano da analizzare, Cruciani, proprio? Da Cruciani, io con questo qua non ci parlo, voglio parlare con lei. Anzi, le devo chiedere, perché stavo andando in macchina quest'estate e ho sentito lo spot, mia moglie mi ha detto, ma tu sei quello che ha detto quelle cose là? No, ho detto io non sono, io avrei detto, ma anche una moglie ha questo comunista di merda, Zerbino, sciacquino, mezzo ricchione. E che ne so, chiediglielo, ma lei ha, c'ha anche una moglie, poveretto, questa? Eh? ragazzi, no, io mi dispiace perché lei continua a collezionare figure di merda. Io non vorrei essere in lei quando torna a casa. Io mi vergognerei fosse un suo parente, ma veramente mi dispiace. No, lei dovrebbe vergognare con le sue idee. Eh? Con le sue idee da comunista di merda. Senta Giuseppe, io non voglio insistere, ma vado perché in giro con una purtroppo maschera, vado in giro con si camuffi quando torna a casa stasera. No, si camuffi, si camuffi. Lei. Sono incommentabili le cose che dice lei, perché lei è totalmente cretino, ha capito? Questo è il punto, cioè lei è totalmente cretino, sarà lei, Cruciani. Lei è totalmente cretino, io ho raccomandato. Che è un raccomandato. Ma di chi? Di ma di cosa? Ma raccomandato di chi? Di cosa? Di da chi? Scusi, lei in cosa è laureato? Ma sono affari miei, ma non me ne frega niente, nemmeno di essere laureato. Se avessi potuto non avrei ma studiato. Ma come Giannino, come Giannino, sì, c'ha tre lauree pure lei. Ma vado a fare in culo. Dai. Zanzare. Quando sento Paraenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. In campagna e a cantare. Zanzare. Una parola d'uma dirà te, triste e cita e se no dormi. Capite che io sento il Papa che parla ai minatori sardi di lavoro e giustizia sociale, poi stacco dall'altra parte Cerenti, Renzi che presenta il libro di Roberto Cavalli. Mentre il Papa dice che la Chiesa deve diventare un ospedale da campo, Renzi dice che il PD deve diventare più cool. L'ha detto lui con la sua bella faccettina da cool. Non andavo fino in Siberia, che c'è un fresh della miseria, ho pur tanca la mia donna, in sciperpala. Oh, sempre alle Iene, altra figuraccia, quella della Melandri, che adesso confessa di prendere uno stipendio, aveva detto no, sarà un incarico a 0 euro, quello del Maxi, là, il museo, il polo museale romano, adesso dice che se diventa, siccome è diventato ente di ricerca, basta con queste inutili, ridicole spiegazioni. Detto che siccome sapevo che i miei predecessori, non io, giustamente avevano avviato la procedura per il riconoscimento dell'ente di ricerca, quando se mai fosse stato riconosciuto il Maxi come ente di ricerca, questo quando l'ha detto? A chi l'ha detto questo? Ma l'ho detto al ministro. Ah, l'aveva detto al ministro. Vabbè, in conferenza stampa si sarà scordata. Al ministro. Senta, guardi, adesso veramente pubblicamente ha detto gratuitamente, però non c'è niente di male, mica ha specificato fino a quando. Mitico Calabresi, se non sbaglio, cioè in conferenza stampa ha detto che era un incarico gratuito, poi al ministro gli aveva detto se fate e se lo trasformate in un ente di ricerca allora prendo lo stipendio, ma vattene a fa culo, va. Andiamo, e dai, su. Ma non si può, uno deve avere anche, cioè, un minimo di dignità, un minimo per dire sì, è vero, merito lo stipendio perché faccio un mestiere, perché lavoro. Certo. E non rompere i coglioni, no, con queste puttanate. Dai. Daniele, provincia di Ravenna, buonasera. Buonasera signor Cruciani. Dica. Buonasera signor Parenzo. Senta, io chiamo 3 volte l'anno quando proprio non sopporto che Parenzo vuol difendere le cause perse. Perché non dire che quello dei genitori della Enghe è una baggianata. Chi è Enghe? Che Enghe? Chi è Enghe? Come cazzo si chiama lei? È una baggianata. È una cosa che non si può. Veramente, non mi va giù, mi creda. Perché voglio sapere se la Lega Nord è dove si riuniscono loro a Pontina. Beh, non mi pare che abbiano fatto, però scusi un attimo, non mi pare che abbiano fatto, abbiano chiamato Orango qualcuno, eccetera. Hanno fatto una cosa, secondo me. Sono d'accordo con lei. Quello è un altro discorso, non hanno offeso nessuno, però è una baggianata, è una stronza, io mi vergognerei se mio padre e mia mamma farebbero una cosa del genere, io mi vergognerei, cosa vuoi ti dico? No, è inaccettabile una roba del genere, io direi a mio padre, ma cosa stai dicendo? Hai bevuto, ma state a casa, ho dentro la tenda, dove vivi? Comunque questo ascoltatore sembra Michigè, spiccicato. No, io sono di origine siciliana, è vero. No, appunto, si sente. No, vabbè, però, ma sembra nel senso che... Però, Cristiano, io la stimo. Però chiamami Michigè è come. Vabbè, ho capito, ma Michigè, che non mi tocchi Michigè, io gli voglio bene a Michigè. No, io anche, però mi creda che. Vabbè, ho capito. Non è che le ho detto, ma adesso non è che l'ho detto, no, Hitler, su. Andiamo. No, per carità. Va bene, grazie, carità. Andiamo. No, Caterina, grazie, niente. Che c'è? Perché? Che c'è? Che no, gli devi dico dire? Grazie. Ciao Maurizio, come stai? Dai, ciao. Tutto bene, ciao. Ciao. Sì, no, persona alla radio, così. Grande Zipponi, no, con Cruciani. Vabbè, ma chi se ne frega chi incontri, sì, dai. No, Zipponi è stato deputato dell'Italia dei Valori. Vabbè, che ti devo fare? Peggio per lui. Te ne foto di Zipponi, la prendiamo. Abbastanza, me ne foto di Zipponi, sì. Questo pigmeo del pensiero che ha appena chiamato, che si permette di offendere delle tradizioni di un popolo splendido, quale quello del Congo. Sì, vuoi stare anche fermo però quando stai alla radio, oppure se devi girare tutta Roma? Non ho capito. Però la vita è nelle strade, non è. E ho capito, dalle 7 alle 7 e un quarto, invece di rompere i coglioni, prendi un taxi, così alle 7 e un quarto sei fermi in un posto, non è che possiamo ascoltare te che saluti Zipponi, chiami il taxi e fai quello. Simone della provincia di Milano, su. Non capisci un cazzo. Simone, provincia di Milano, su, Pannella, sì, stai buonasera, calmo. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Dai. Niente, chiamavo anch'io per quanto concerne il ministro Kyenge, no? Niente, questo è proprio il classico esempio di come il nostro paese sia proprio un paese di pagliacci. In che siamo senso, riusciti, scusi, addirittura a creare un ministero, no, per una negra che non capisce un cazzo, no, per far che cosa? Per dargli 20.000 euro al mese e poi dopo sentire queste cose qua. Scusi, e vuole allora, innanzitutto, primo, nome, e vuole farsi... Primo, e vuole primo, farsi primo. Chiamare col nome del Congo, ma chi se ne frega, ma che si vada a farsi chiamare a casa sua col nome del Congo, no? Sì, ma però stia tranquillo, stia tranquillo. Cose, però questo... Allora Simone, innanzitutto lei dice... Bene, lei dice bene perché quelli come Parenzo, i politically correct che vogliono i matrimoni gay, sì, vogliono la Kyenge, tutte queste cose, è giusto che funzioni così, che vengano, che ci freghino i posti di lavoro, che prendano i diritti, va benissimo. I nostri italiani che magari lavorano devono lasciare a casa la moglie perché non possono portare l'asilo, i bambini all'asilo nido, perché davanti hanno tutta questa marmaglia di gente. È giusto così, e noi diamo tutto quello che vogliono fare. Questo è il fatto. Come dici Parenzo, non ho capito. Guarda imbecillotto, che questa qui non è Radio Ku Klux Klan, Radio Padania Libera, capito? Ma perché io ti devo sentire male? Perché tu eri prima, Parenzo, fino a 5 minuti fa eri fermo in un posto, io adesso ti devo sentire male? Perché? Perché? Male, ma chi me lo dice? Ma perché Elena da Monza? Perché devo sopportare tutto ciò? Perché Elena da Monza? Ma Parenzo lo pagate voi? Eh sì, sì, sì, sì, lo paghiamo. Re, com'è, chi era quello là di prima? Elena? Eccomi qua, buonasera. Dica, dica. Grazie per la possibilità di parlare in radio. Ma ha chiamato lei, qui non c'è, non è che decidiamo noi, ha chiamato, bene. Non c'è filtro. Senta, niente, io volevo intervenire rispetto all'intervento, scusi, gioco di parole di ieri della Boldrini e la famiglia. Vabbè, abbiamo capito, via. Ecco, io sono la classica signora che va a lavorare, sì, che fa un lavoro soddisfatto, che però vengo a casa e faccio la cena o la colazione ai miei figli, ma non mi sento per questo in qualche modo sminuita. Anzi, lo faccio con grande piacere, perché poi a me piace cucinare e soprattutto penso che la cucina e il tenere i figli ma certo, sia un'ottima scuola di vita. Non c'è dubbio. Scuola, dalla chimica all'economia. Va bene, perché grazie Elena, abbiamo capito grazie, benissimo. Buonasera. Ciao, ciao. Guido da Udine, Guido, buonasera, buonasera, aspettiamo un grandissimo ospite fra qualche istante, se Parenzo si riprende, se la trasmissione può andare avanti, altrimenti mando a fare in culo tutti. Guido. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, a proposito dei parlamentari che si dimettono in massa, allora la legge elettorale è prevista, è fatta di per liste, per cui quando si dimette il primo subentra il secondo, se non è il secondo è il terzo. Se si dimettono in massa vengono surrogati in massa da quelli dei non eletti. Sì, ma è un gesto politico, è evidente che subentrano i non eletti, ma i non eletti non subentreranno, è un gesto politico che, perché è accompagnato dalla richiesta di elezioni, cioè non è la stessa cosa, non è che possono subentrare gli altri e va tutti in cavalleria, non può funzionare così, no? No, ma non hanno la maggioranza assoluta in Parlamento. Sì, ho capito, ma è evidente che se si arriva a una situazione di questo tipo, con le dimissioni di massa e la richiesta di elezioni, non è che subentrano gli altri, si può fare un governo, un altro tipo di governo, ma è evidente che è un gesto che può mettere in grandissima difficoltà, cioè, Napolitano e l'assetto che c'è adesso, non c'è dubbio. L'operazione è fatta per cercare di evitare la decadenza di Berlusconi, questo è il punto fondamentale. dell'Italia, mio e suo, e non lo sapevamo. Va bene. Va bene, arrivederci, grazie. E siamo qui con Domenico Crispino, ingegnere, marito del ministro Chieng. Buonasera. Buonasera a lei, dottore. Come sta? Come sta? Ciao Domenico, ci chiamiamo per nome. Domenico, Domenico. Ti chiamo Giuseppe. Posso darti del tu? Posso darti? Bacco, ci mancherebbe altro. Che è anche direttore del consorzio attività produttive Are e Servizi di Modena, una cosa, comunque ingegnere. No, no, Domenico, Domenico, ti chiamo Domenico. Allora, caro Domenico, dimmi una cosa, innanzitutto quando hai conosciuto tua moglie? Mia moglie l'ho conosciuta nel 1992. Beh, insomma, 21 anni fa. 21 sì. anni fa. Tu quanti sì. anni hai? Scusa, detto la posso. Io ho 59, sono il 54. Beh, dunque eri un ragazzino praticamente. Oddio, sono ragazzino anche adesso. No, sì, vabbè, 30 anni, eccetera. Ma all'epoca tua moglie che cos'era? Era già regolarizzata, tutto normale? Sì, certo. Stava finendo gli studi, aveva fatto già la richiesta di cittadinanza che poi ha accelerato col matrimonio. Ci siamo sposati nel 94. Cioè l'hai fatta diventare italiana tu, in sostanza? Lo diventavo lo stesso perché aveva fatto gli studi in Italia, quindi gli anni li aveva. Dunque smentiamo questa cosa, cioè non è stato grazie al matrimonio che... Assolutamente no. Che il ministro... Senti, ma tu come stai vivendo questa situazione in cui ci sono degli attacchi continui nei confronti del ministro? Dimmelo sinceramente. Ho ridotto le letture dei giornali perché... Quanto dolore ti fa? Se gli attacchi sono diretti, fatti fisicamente, quando sono fatti nascondendosi dietro Facebook o dietro un microfono, sono parole. No, ma per esempio, chi è che ti dà più fastidio? Per esempio nella Lega, chi ti dà più fastidio? Ma nella Lega e chi non, a volte non legge tutti i messaggi, Borghezio, fastidio è una parola grossa. Come dissi nell'intervista che mi fece gente, c'è gente della Lega che rispetto, anche amici, veritosi, le persone equilibrate ci sono anche nella Lega. Sì. Addirittura una volta, come ho già detto, ho votato uno che accidentalmente era nella Lega. E chi era? Lega. Era il vice sindaco di Sassuolo, una brava persona. Dunque hai votato Lega in sostanza? No, ho votato, ecco, ci tengo a specificare, c'era il voto disgiunto, sì. E ho votato, poteva esserci Cruciani, se era una brava persona, poi senza chiedere, sapevo che era dalla Lega, sì. Però è una persona che proprio come consorzio, in un periodo in cui era nata una legge che tagliava anche i consorzi come il nostro, che assolutamente non riceviamo un soldo dai comuni consorziati, quindi siamo completamente autosufficienti, rischiavamo di dover chiudere. Gli ho posto il problema, lui mi ha messo in contatto. Vabbè, insomma, avete avuto delle cose in comune da fare, lo hai apprezzato. E ricordando una vecchia frase del mio professore di italiano liceo che diceva bisogna anche guardare chi si vota, non per chi si vota. Però hai votato un leghista, hai votato un leghista. Sì. Ma che hai votato nella tua vita? Te lo posso chiedere o puoi tenere un po' il... No, problemi, ho votato anche PD. L'ultima volta che... Ho votato PD perché c'era mia moglie. Grillo? In passato ho votato Repubblicano. Non ho nessuna iscrizione a nessun partito. Berlusconi l'hai mai votato? No. No, però ascolta anche quelli del PDL perché la Ma pensi che sia un delinquente Berlusconi? Io penso che ha avuto dei gradi di giudizio che l'abbiano condannato per cose che secondo me effettivamente a livello imprenditoriale sono abbastanza frequenti. Dunque non ha inventato niente di nuovo. Però le regole sulle regole. Cioè, voglio dire, pensi che sia davvero un perseguitato dalla giustizia? Un po' sì, un po' sì. I processi ne ha avuti un tot. Forse troppi? Via. Poi c'è un po' un accanimento dei magistrati nei suoi confronti. Ma non so se c'è l'accanimento, io le carte non le conosco. No, ma in generale, andando a vedere il numero di processi... Processi ne ha avuti abbastanza. Però lui è poi bravo perché riesce sempre a girare a suo favore, quindi... Anche da questa qui ci guadagnerà. Ma si dovrebbe tirar fuori dalla politica? Dovrebbe, insomma... Ma la politica la può continuare a fare tranquillamente. Se lo votano, non vedo perché debba sparire. Dunque, ma secondo te è giusto fare... Adesso stasera c'è questa cosa delle dimissioni di massa, eccetera. Ma ha ragione Berlusconi a dire che il PD dovrebbe un po' sostenerlo per evitare che decada da parlamentare, sì o no? Cioè tu, tua moglie al governo... No, io di queste cose non parlo con mia moglie, il PD non può sostenerlo probabilmente perché perde tutta la base. Però fosse per te lo lascerei stazionato. Ma io ti dico, se devo essere schietto per schietto, tipo di reato, sì. farei una pena accessoria, cioè paghi 20-30 volte quello che mi devi e ti perdoniamo. Senza processo penale, tutto, condanna. Ma sì, restituisci il maltolto con gli interessi, se è stato provato. Parenzo, ci sei o sei morto? Però dice no. Beh, un grande, signor Crispino, cioè, Domenico è vivo, cioè combatte. Salutare Domenico e dire alla regia che sento la mia voce di ritorno mentre parlo, ma non importa. Mentre abbraccio il marito della ministra, Kienge, che è una delle ministre preferite, gli chiedo diretto, quello che sì. Mi rispondermi sinceramente, questo paese è un paese razzista. La vicenda di tua moglie purtroppo lo dimostra. È un paese vomitevolmente razzista. È vero secondo te, Domenico? È vero o non è vero? È vero o non è vero? Bisogna distinguere secondo me tra quello che si fa apparire e quello che si è. L'esempio emblematico è stato quello che è stato ripreso ovviamente da Libero di mia cognata quando le hanno preso la casa, l'hanno aiutato quelli della Lega. Se fossero stati razzisti non l'avrebbero fatto. Noi si erano fatti pubblicità della cosa allora. Adesso che mia moglie è diventata ministra l'hanno hanno rovinato un bel gesto. Cioè, io non ho capito una cosa, secondo te l'Italia è razzista o no? Ma sì. Un certo razzismo c'è, ma più quando si è nel branco che quando si è isolati. Senti, Borghezio è razzista secondo te? Borghezio ogni tanto No, ma lo definiresti un razzista? Calderoli? Calderoli ha fatto una sparata anche lui, ha chiesto anche scusa. A chi assomiglia secondo te Calderoli? Dici fisicamente? Fisicamente, perché in realtà la cosa che ha detto sull'Arango si potrebbe tranquillamente girare anche a lui, o no? No, ma io non mi permetto di... Ma lo inviteresti a cena? Per bacco. Cioè lo inviteresti a cena a casa tua? Con tua moglie? Inviterei, non avrei nessun problema. Ma infatti questa è la cosa, che poi al di là della politica magari escono fuori delle cose... Cioè facciamo questa cosa ufficiale, un invito a cena a casa Gang, non so se tua moglie è d'accordo, Lo invito anche io, c'è una casa anche a Modena, l'invito io. Non Beh, però ci deve essere tua moglie, o dici che tua moglie è difficile. Ma penso che non ha problemi neanche mia moglie, sì. Invitiamo Calderoli a cena una volta a casa tua. Dov'è casa tua? Modena? Con cucina, sì, vicino a Modena, con cucina africana che ottima. Cucina africana, adesso questo non so se il signore se no, gradisce. No, piace anche lui, piace anche a me. Soprattutto dopo quello che è successo in Congo, hai visto con no, la foto? In Congo lui, adesso lui non so se si è lamentato, ma in Congo sostanzialmente hanno fatto la, come diceva prima Parenzo, e nella tradizione, perché il capo tribù in Congo si chiama Chef Coutumier ed è il personaggio che porta, che ha al comando tra virgolette di un gruppo, di una tribù del villaggio, e porta avanti le tradizioni. Però c'era la foto di Calderoli, hanno fatto no, una specie... ma quella perché non era assente, tenga presente. Era assente, però hanno fatto una specie di preghiera per tirargli fuori il maligno. Sì, però deve notare un'altra cosa, l'hanno messo all'altare degli antenati, per gli africani gli antenati in Congo perlomeno sono un po' come santi. Quella è una grossa forma di rispetto. Quando andai in Africa, soltanto in due ci ha fatto avvicinare all'altare. Cioè, lo hanno in qualche modo lo hanno rispettato perché... No, lui lo rispettano, se lui andasse là lo tratterebbero con i guanti gialli. Non lo scannerebbero, secondo lei? Assolutamente non lo cucinerebbero dentro un pentolone? No, assolutamente no. Ho letto quello, io poi vado con quello che ho letto e ho visto i video, se ne facessi vedere un vecchio VHS del 2007, quando ci sono andato anch'io, ho fatto la stessa cerimonia, so che io ero presente, tra altre cose... In quell'anno fecero ballare anche noi, io che sono negato per il ballo, ho copiato dal professor Leone, che il chirurgo che ha operato il mio suocero, dei kata di karate, poi chiuso con una caduta in avanti di judo, che mi hanno applaudito tutti perché nonostante fossi cicciottello l'ho fatta bene. Senti, Domenico, scusami un attimo, ma mandaci Domenico questo VHS, adesso ce lo manderà, ma io voglio chiedere una cosa. Tu quando parli con tuo suocero, come si chiama, il papà della il papà di Cécile, tu, ma non ti mette un po' a disagio il fatto che abbia fatto non so quanti 38 figli, una cosa pazzesca, o no? No, ma io alcuni li conosco, ma è un po' come... Cioè non li conosci tutti? Alla fine no, non... tutti no, ne ho conosciuti, ma... Quanti ne hai conosciuti su 38, scusa? Almeno una ventina, 20 su 38, sì. Spettacolare. Ma cioè ti faccio un esempio, se tu sei sposato, perché la moglie di mio suocero è la mamma di Cecil, sì, poi hai delle altre relazioni, non necessariamente poligamia. Beh, adesso no, ho capito, però lì c'è la poligamia. Boh, io non... Domenico Crispino, ingegnere, marito di Cecil Chieng, ai nostri microfoni qui alla Zanzara. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglione. Tu sei come una piccola zanzara. Che cosa rappresenta per lei oggi Silvio Berlusconi? È un uomo che ha commesso degli errori, è un padre in difficoltà. Che tipo di errori ha commesso? Guardi, io sono intervenuta per rispondere a coloro che tentano di ribaltare la verità. Sono convinta che la storia di mio padre sia una storia politica e imprenditoriale, non di certo criminale. È questo quello che penso. È meglio lavorare, non voglio discutere. Ancora la Boldrini, dove sono le esperte, le donne esperte nei talk show? Adesso mette becco pure sui talk show, io non ne posso più. Ma perché uno parla? Ma si limiti a fare napolitano, Rodotà, napolitano, Rodotà, oppure stia calmo onorevole, oppure si voti l'emendamento 235, 200 bis, 200, questo deve fare il presidente della Camera, non è l'incarnazione di qualche cosa, non è la, il rappresentante di una corrente di pensiero, questo deve fare il presidente della Camera, il lavoro da burocrate, i presidenti della Camera in Spagna, in Francia, non si conoscono nemmeno, non parlano, stanno zitti, fanno il lavoro da burocrati e basta, non rompono i coglioni ogni giorno. Merita una riflessione questo. Guardiamoli questi talk show. Questi talk show hanno sempre molti esperti maschi. Allora, dove sono le esperte femmine, le donne, no? Io penso che la par condicio, e beh, la par condicio si veda anche da questo. Cioè, perché le esperte donne non se ne vedono così tante nei talk show televisivi? Perché? Non ci sono? Bah! Parenzo, dimmi qualcosa tu, io non ne posso più. Cioè, io veramente non ne posso più. Ti assicuro che non ne posso palle. Più. Cioè, ti assicuro che non ne posso più, Cioè, non ne posso più. Ora, gli esperti dei talk show. Io farei apposta tutti quanti conduttori di talk show e in televisione, non inviterai le donne per due mesi. Così vediamo che succede. Apposta, due mesi senza manco una donna. Non lo so, cioè, ma di che stiamo parlando, dai. Domenico, aiutami anche tu, in questa cosa. Domenico Chieng. Ti piace? Ti piace? Per ascoltare un talk show devo registrarlo con Sky. Ci metto almeno 3-4 volte a sentirlo. Mi addormento. No, ma per dire, no. Ti piace la Boldrini come presidente? Ma, condivido quello che hai detto tu, dovrebbe essere un po' più asettica e essere più formale. La Pivetti è stata una grande... non l'aveva mai fatto, si è mossa bene anche Casini. Meglio della Boldrini, dice te, no? Ma non dico meglio e peggio, perché la però... Boldrini è una persona, c'è un passato da rispettare. Passato, insomma. Ci vuole anche magari una certa esperienza per fare quel lavoro lì. Senti una cosa, ma secondo te Borghezio... Ma che simpatico che è, ma veramente, ma è una persona veramente adorabile. Ma tu sei Chieng così con tutti, tu no, lo conosci? No, alle volte inviti certi stronzi che io glielo dico anche a muso duro. Ma secondo te Calderoli, Calderoli è indegno di stare in Parlamento, di stare al Senato, per quello che ha detto Lorango, eccetera, o no? Se le cause di indegnità fossero solo quelle lì, dovrebbero essere vuoti i parlamenti. Vabbè, ho capito, cioè nel senso che... Ma si è anche scusato, cioè non più di così cosa deve fare. E Borghezio invece dovrebbe stare... Anche Borghezio si è scusato, mi sembra, non sì, so. Non lo seguo molto Borghezio. Per modo di dire. Ma senti, c'è un errore però che ha commesso. Molti dicono, tua moglie è lì perché... solamente perché è di colore, solamente perché è nera, solamente perché... E innanzitutto, la parola negra, secondo te, è un'offesa? No, il colore della pelle non è un'offesa. Posso garantire una cosa, che lei ha lavorato in ombra, spendendo tempo, sacrificando la famiglia per 10 anni, nei movimenti, nei vari movimenti. Ma usare la parola negra, secondo te, è un'offesa? Ma dipende da con che accezione e con che tono la usi. Per esempio, mi ha un po' dato fastidio il modo con cui l'ho usato, che ho sentito la trasmissione. Sì, un ascoltatore, sì. Che persona, ah no, Villaggio, sì, Villaggio. Villaggio, sì. Detto in quel modo lì, come dire, anche in Africa, se vai in Africa, ci sono quelli che quando ti vedono passare ti urlano dietro Buzungu, che vuol dire uomo bianco, dipende da come te lo dicono, se nell'ambito di un contesto di ragionamento sei Muzungu, tu ci sei. Però non è uno scandalo dire una, quella è negra, dicendolo in maniera settica così, si può tranquillamente dire senza problemi. Si può dire tranquillamente. E senti una cosa, riprendiamo la questione di quello che è successo in Africa. Qualcuno, qualche leghista dice hanno fatto una specie di macumba, di voodoo nei confronti di... No, assolutamente no, non fa parte delle funzioni intanto del capo tribù. Capo tribù, il massimo che fa delle benedizioni, come fanno le nostre anziane in meridione, quindi a fin di bene. Lì cioè è una cosa a fin di bene? No, e non è uno stregone il capo tribù, e neanche c'è lo stregone nel villaggio. Poi i riti, il voodoo, e poi bisognerebbe approfondire sul voodooismo e non è il mio campo. Vabbè, no, per riprendere la cosa invece, comunque non era una cosa negativa nei confronti di... No, assolutamente no, il fatto stesso che abbia messo la foto con gli antenati la dice tutto. Beh, però gli vogliono tirar fuori lo spirito cattivo, cioè come se avesse qualcosa... Ma è un po' come il ragionamento dei cattolici, cioè il senso di pentiti... Ma lui l'ha già fatto, quindi non ha nessun problema. Senti, però questa cosa della poligamia, perché tu dici che non c'è la poligamia nel caso del il matrimonio in chiesa è con una, e secondo me non c'è la poligamia. Però ha fatto un sacco di figli con tante donne. Con quante donne ha fatto i figli tuo cognato? Con quattro. Tuo suocero, come si dice? Sì, mio suocero, con quattro. Con quattro donne. Con quattro. Ma perché ti stupisci così? No, ma io non mi stupisco. In Italia uno che esclusi presenti che non abbia avuto relazioni con extraconiugali. Beh, adesso sì, però non è che c'è gente che ha 38 figli, scusami, no, in Italia. Guarda, sai, quello è legato a un altro fatto, che è un fatto culturale. Non c'è il concetto di famiglia come in Italia, che se tu fai un figlio lo devi mantenere. L'esempio emblematico è Ma tu sei d'accordo con questa cultura? No. Ma che male c'è? Assolutamente no. Mia moglie però è venuta in Italia, questa è una delle cose che più ho apprezzato, anche una delle cose che ho apprezzato maggiormente, contrariamente a quello che affermano i superficiali, che dicono se è venuta a studiare in Italia vuol dire che era ricca. No, lei è venuta in Italia perché non poteva fare farmacia, medicina in Africa. Da clandestina è arrivata in Italia, no? No, è venuta con un volo normale in quel periodo. Però per un periodo è stata clandestina, se non sbaglio. Nel senso che non è... adesso in quel periodo essere negro faceva chic. Mi ricordo c'erano anche i cantanti di blues neri che erano apprezzatissimi. Non c'era una situazione precaria come quella attuale, sì, dove stanno cercando di mettere in piedi una guerra tra poveri. Non c'era il timore di perdere il posto, così. Lei è venuta, ha voluto studiare alla Cattolica e si è mantenuta da sola. Si è laureata nel numero di anni minimo, in 6 anni, con il massimo dei voti, poi è venuta per sua sfortuna a Modena, ha conosciuto me, ha fatto la specialità a Modena. Scusate, però... mantenuta da sola. Però non è... Cioè, molti dicono è lì perché è nera, e in realtà poi cioè, è una sorta di figurina, di simbolo, e conosce poco di quella materia, eccetera. È una critica che tu accetti oppure no? Ma sull'integrazione posso dire che se ne è occupata abbastanza per quasi 10 anni. Tu sei consapevole, però è stata scelta perché è simbolo, no? Questo sì. Ma io non sono convinto al 100%. Lei è stata scelta e è andata avanti per gli anni che ha lavorato con la Turco, sì, hanno fatto tante cose insieme, la Turco l'ha segnalata e poi l'hanno e poi io non sono nella testa di Bersani e di Letta, ma non penso che cioè, la Turco l'ha segnalata a Bersani, questa è la cosa. Ma questo se lo chiede lo dice anche mia moglie. No, certo, la Turco l'ha segnalata. No, ma anche fosse solo quella, hanno fatto tante cose insieme, ha collaborato anche con l'onorevole Boldrini, la conosceva perché la Boldrini si occupava degli stessi tempi. Poi non è che fosse la prima, perché il primato sulla candidatura di una Lega o di uno di colore ce l'ha la Lega, che ha fatto un sindaco di colore, quindi sono primati che portano poco in là, secondo però me. Però adesso un errore l'avrà fatto pure a parlare continuamente di questa cosa dello ius soli, no? Del diritto di un... mentre manco il governo è d'accordo, questa cosa del genitore 1 e del genitore 2... Quella del genitore 1 e del genitore 2 delle informazioni che... Lei la smentisce. No, sono state messe in giro da un personaggio che l'altro giorno ha scritto che ho subito una rapina a casa, che non era vero niente. Lei dice quello di Libero. Non so se era di Libero... Vabbè, un errore. Che errore ha commesso fino adesso? Quant'è? Errori particolari, non è vero. Io sarei forse più... spingerei di più su quella cosa, perché non è vero poi, secondo me, che... Cioè lei è a favore dello ius soli o no? È a favore dello ius soli lei? Ma cioè... mi lascia non indifferente, cioè è legato al contesto in cui si inserisce e alle prospettive. No, però non mi sia generico. L'idea che uno che nasce in Italia da genitori, diciamo, extracomunitari o comunque non in regola possa essere italiano, per lei va bene o no? Devono essere residenti, mi sembra che dicono nei disegni di legge. Vabbè, comunque deve essere residente in Italia. Un certo numero di anni nel disegno di legge, il più cartellativo si parla di 5 anni. Sì, comunque lei non è contrario. No, perché io sono convinto che il futuro sarà un multiraziale. Bravo, e soprattutto... Cioè il futuro dell'Italia è multiraziale, No, ma non solo l'Italia, se vogliamo saltarci fuori dovremmo emigrare anche noi nei paesi che sono in grado di crescere, perché non sono convinto che i nostri paesi possano crescere all'infinito come ci raccontano. Ma Borghezio, quando dice che il matrimonio tra meticci è una vergogna, non le fa un po' schifo? Io dico sempre, spegni la luce e non te ne accorgi più. Cioè? Cioè, se tu spegni la luce capisci se uno è nero, se è bianco, se è meticcio. Quindi sono delle... Ma qualche volta non è in un momento particolare di polemiche eccetera eccetera, non è venuta voglia di dire basta con l'Italia o no? A me? Assolutamente no. Mai. No, e non vorrebbe che sua moglie lasciasse il ministero per stare un po' più in famiglia? No. Vabbè, quello è un prezzo che si paga, lei fa piacere, quindi si è fatto il sacrificio anche prima, quando andava in giro per le sue cose. La zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. E siamo qui, Rita da Frosinone, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Una cosa mi deve consentire, di salutare Parenzo. Lo saluti, sta qui Parenzo. Buonasera a lei, caro. Perché una persona intelligentissima. Addirittura è intelligentissima, su Rita, non esagero. È un'intelligenza, diciamo, normale, piuttosto vivace, però insomma, è intelligentissima. Io ho chiamato semplicemente per dirle, pensi che io ho una figlia che 32 anni fa l'ho fatta battezzare da un omosessuale. Ma che vuol dire battezzare da un omosessuale? Non è uno omosessuale battezza e dai, su. Il compare al battesimo. Ma che vuol dire battezzare un omosessuale? Scusi, il padrino era un gay. E vabbè, pazienza, il padrino era un gay. No, per dirle, no, favoloso. È una persona eccezionale. Ma nel 2013 il clima, ancora stiamo ragionando con ste stupidaggini. Io non riesco a capire. Cosa? Io 32 anni fa e mia figlia non ha avuto nessun problema. Anzi, l'ha avuto col padre e non con il padre, per dirle. Ci sono dei genitori che non sanno amare i figli, ci sono altri, i figli vanno amati, l'ha spiegato tutto a loro, fin da piccoli. Sì. Solo questo volevo dire. Vabbè, grazie. Caterina da Milano. Sta cambiando il clima. Ma sta che cambiando? Buonasera. Sì, sta cambiando finalmente, sta cambiando. Allora Caterina, dica. Io ho chiamato per dirle riguardo... Aspetta un attimo che sento il ritorno. Io lo sento benissimo invece. Parli, non si preoccupi. Allora? Pronto? No, comunque se andò ritorno anche se non... Vada diretta. Volevo una bottiglia di champagne, allora, per cortesia. Grazie. Partecipo anch'io. Volevo dire, riguardo al fatto che la sinistra ha fatto due governi insieme a Berlusconi, sì, il problema è questo, perché noi abbiamo una legge che dice che dopo 3 gradi di giudizio sei è colpevole, è innocente. Sì, ma non è così. Quindi, Caterina, la signora Barbara Berlusconi, sì, certo che è così tecnicamente. La signora Barbara Berlusconi dice, siccome avete sempre considerato Berlusconi un delinquente, al di là della questione della sentenza, al di là della questione del... Sì, ma io posso considerarlo un delinquente, però se non ho niente in mano per dire tu sei un delinquente... Vabbè, ma ci sta tutta la polemica, su, non è sbagliata come frase che ha detto la signora Barbara Berlusconi, ha detto polemicamente, no, ma al di là delle cose che ha detto sul padre, chiaramente quella la figlia lo difende, dice che non è un delinquente, che non è uno storico criminale, va bene. Poi ha detto una cosa, perché voi che lo considerate un delinquente ci avete fatto due governi, il primo e il secondo? Lei dice perché non c'era la sentenza definitiva, ma questo non c'entra nulla, esatto. Perché ma quelli lo consideravano delinquente pure prima. Quello che ti dice. Lo consideravano delinquenti, lo consideravano delinquenti pure prima. Sì, ma non posso dire prima. Non voglio con questo qui perché è un delinquente. No, lo devo fare perché non ha ancora avuto il terzo grado di giudizio. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Anche il suo aiutante bolscevico comunista di merda, sciacquino, zerbino? Sì. Sì, forse ha dimenticato qualche aggettivo, però sì, confermo, pagato dalla Confindustria. Perfetto. Giovanna, provincia di Salerno. No, no, no. Giovanna, provincia di Salerno. Buonasera Cruciani, è un piacere parlare con lei. Dica. Volevo intervenire sulla questione della Boldrini. Vedremo non dopo. Mi trovo molto d'accordo con lei, con la visione semplicistica di critica. Ma non c'è nessuna visione semplicistica, è la mia idea, appunto. Nella pubblicità, fare la critica alla pubblicità sulla vicenda delle donne che servono a tavola, eccetera, è ridicolo. Ridicolo. No, è stata probabilmente troppo estrapolata il discorso della Boldrini dal discorso generale che ha fatto, perché è una visione globale che si ha nella scuola, nei libri, nei fumetti, nella pubblicità, e non ha torto, secondo me. È stata un po' manipolata la sua intervista, è stata in un po' tagliata. Tagliata. Non ho grande simpatia per la Boldrini, neanche io, non mi piace molto, però il discorso è giusto. Ma qual è il discorso giusto? Non ho capito, qual è il discorso giusto? Il discorso è che nella nostra società ancora la donna ha una visione secondaria, una visione dell'accudimento, della cura o della super bomba sexy. Non c'è ma chi se ne frega? Possiamo dire chi se ne frega? Chi se ne frega? No, molti, no, mi ma chi se ne frega come la donna viene dipinta dalla pubblicità? A parte che non è vero che è così, ci sono 40 milioni di pubblicità con donne in 2 milioni di ruoli, basta. Cruciani, molti vedono in questo il fatto che che ci sia un femminicidio così forte in Italia. Ma che c'entra il femminicidio con questa roba qua? Cosa c'entra? C'entra nel fatto che se la donna viene sminuita e viene vista come oggetto, viene vista anche come facile oggetto di violenza. Ma stupidaggini totali. Posso consigliare un libro molto interessante? No, io non leggo libri, grazie. Non leggo, grazie. Paolo da Pisa, buonasera. Perdo tempo a leggere libri, una cosa lunghissima, complicata. Paolo. Buonasera Cruciani e Parenzo. Allora? Il signor Guido Barilla ha detto che la Boldrini non capisce niente di pubblicità. Sì. Nella vostra intervista. E in realtà credo che lui si sia fatto un po' un autogol. Perché quando ha detto che i valori della Barilla riguardano quelli della famiglia tradizionale e sostanzialmente che loro vendono alle famiglie tradizionali, mi domando io a chi vendono ora in Italia, visto che insomma grande crisi del matrimonio e della famiglia tradizionale. Non ho capito, scusi. Che lui ha detto che la Boldrini non capisce niente di pubblicità perché ha fatto quell'intervento. E lui ha detto, quando voi avete chiesto se avessero rappresentato anche gli omosessuali che mandano la parte, non rappresentato, non c'è bisogno di rappresentare nessuno. Nella pubblicità. Sì, magari avevano in mente di mettere una famiglia gay. Una famiglia gay, lui cosa ha detto? Già mai, perché noi rappresentiamo la famiglia tradizionale e vogliamo quelli. E adesso ci sarà il boicottaggio dei prodotti Barilla da parte delle associazioni gay. Ma non penso proprio, però mi vedrà, sembra... Vedrà domani. Persona che dovrebbe vendere, lui fa il pastare. Un attimo. Chi è? Anzi, sto provando a vedere che succede. Chi è Inge? Succede alla cosa del PDL, capito? Anziché chi è, bisogna dire chi è Inge? Aspetta un attimo, vediamo se abbiamo qualche infiltrato. Però c'è chi non aspetta il telefono, Chi è Inge? Chi è? Paolo, allora? Sì, No, è semplicemente una persona che vende pasta, dovrebbe un imprenditore, però non è che, scusi, però Paolo, non è obbligatorio fare la pubblicità con una famiglia omosessuale, no, certo, è... certo che non è obbligatorio, voi avete provocatoriamente chiesto se avrebbero fatto pubblicità con gli omosessuali, lui cosa lui si è cascato come una peracotta e ha detto no, per carità, noi giammai, noi rappresentiamo, noi ci piace rappresentare la famiglia tradizionale. Allora, mi stanno informando che sostanzialmente Berlusconi sta parlando di campagna elettorale, dei club, dell'organizzazione, sembra poi magari Berlusconi domani si sveglia e diventa di nuovo Colomba, sembra guerra totale. Guerra totale. Ha già pronto un discorso che pronuncerà al Senato. Guerra totale, cioè dire vorrebbero lo scioglimento delle Camere, questa è la sostanza. Piero da Milano, grazie Paolo. Piero. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Piero. Ho sentito peraltro con estremo piacere poco fa la lunga conversazione relativamente alla ministra Cécile, che ho avuto anche l'opportunità di conoscere poco tempo fa, e fortunatamente ogni tanto ci si riconcilia con la politica italiana conoscendo questo tipo di profili. Poi? Peraltro la seguo da tanto tempo, io in realtà volevo intervenire sulla Boldrini perché la seguo quotidianamente e amo moltissimo la sua maniera provocatoria anglosassone di fare radio, ma oggi non la seguo proprio nel momento in cui lei mi descrive la Boldrini come l'ha voluta descrivere, perché quando una persona istituzionalmente di questo livello, di qualsiasi livello sia, si mette nelle condizioni di aiutare questo paese a progredire culturalmente, secondo me bisognerebbe lasciarlo fare e non demolirlo come spesso si fa con la Boldrini in questo caso, a prescindere dalla sua lo sai che non ho capito nulla, scusi Sì, beh, no, ha capito benissimo. No, non ho capito in niente, cosa vuoi dire? Il suo ma sospensivo interrogativo di un'ora e mezza fa che ho ascoltato quando ero in tangenziale esattamente ha fatto mi ha fatto pensare effettivamente che lei ma io posso dire che quando parla di questa storia delle pubblicità e di altre cose dice semplicemente lei delle puttanate inaudite. Sono delle puttanate inaudite, sono delle cose che per la prima volta probabilmente non mi trovo d'accordo e va con bene lei, pazienza però non è che mi dice perché mi sta dicendo una cosa però, così non sono d'accordo. Secondo lei quando lei vede una pubblicità con una donna che porta la colazione pensa che il ruolo della donna sia sminuito, lei pensa questo? Cruciani, se lei viaggia, penso che lei viaggi, io ho vissuto 17 anni all'estero come espatriato, spesso si vedono questo tipo di pubblicità nei paesi non progrediti, evidentemente. Ma quando mai? Ma non è vero. È così? In secondo luogo, caro Cruciani, non pensi che i parlamentari o gli statisti all'estero non intervengano su delle questioni nazionali di tipo culturale? Perché si sbaglia. Ma ogni giorno, ma quando io dico il presidente, non il presidente dell'Assemblea Nazionale Francese, manco se conosce. Perché deve fare solo la burocrate? Abbia pazienza. Ha preso la parola, ha detto un qualche cosa che è attinente con... Ogni giorno è prima la pubblicità e poi quella e poi quell'altro. Ma se persino una persona che non è come il signor Guido Barilla si sente in dovere di dire certe cose, ci sarà un motivo, no? O no? Grazie. Allora, in questo momento Berlusconi sta parlando solo dei magistrati, praticamente le dimissioni le dà per scontate. I capigruppo del PDL avevano già detto delle dimissioni. Tutti hanno detto di essere d'accordo. Sta parlando solo di magistrati, cioè le dimissioni proprio è già deciso. Insomma, parla solo di magistrati, una cosa pazzesca. Tutto finito. E poi magari domani si sveglia e torna di nuovo, parla con Gianni Letta e tutto finito. Vabbè, siccome a noi ci piace il casino, vogliamo un po' di bordello. No, però la notizia vera è che lui ha spostato la residenza da Arcole a Roma. Anche questo, sì, forse si prepara ai domiciliari. Questo è un segnale politico. Domiciliare ottimo a coso, Palazzo Grazioli. Non sono proprio i domiciliari in un monolocale, ecco. No, questo. Ci sarà anche il trasporto di Dudù. Allora, ti presento un tuo amico, il signor Maurizio Ruggero. Maurizio, come stai? Buonasera, come andiamo, Cruciani? Amico, bene? Amico mio. Signor Ruggero, ci manca. Saluto da Parenzo. Cosa va, signor che si converte, ci fa sempre un piacere. Si converte a che cosa? Al cattolicesimo, dice lei? Alla vera religione. È cosa fondamentale, alla vera religione. Scusi, ci vuol ricordare, signor Ruggero, lei di che cosa è presidente, di quale associazione è presidente? Allora, una delle associazioni di cui sono presidente presidente di Altra il segretario e Sacrum Imperium. Ah, il Sacrum Imperium. Qui uno sta parlando, come dire, di crisi di governo, di cose normali, della democrazia, e lei parla del Sacrum Imperium. Ma scusi, commissario, lei si rende conto che la sentina democratica emana fetore ogni giorno, lo vede anche lei, no? E si preoccupa del Sacrum Imperium. Scusi un attimo, ma come considera la Boldrini che ha fatto questa roba qua sul ruolo della donna mentre serve la colazione? Immagino che a casa sua i ruoli siano ben precisi, no? Immagino. Beh, guardi, della Boldrini è difficile parlare bene, cioè, mi si dica una cosa buona della Boldrini e poi evidentemente possiamo parlarne in bene. Beh, purtroppo essendo una persona che ha cavalcato l'onda immigrazionista prima per poi arrivare chissà come, veramente per la mano del demonio, non dirò per la mano di Dio, in Parlamento, queste sono le conseguenze che abbiamo. Scusi un attimo, signor Ruggero, lei come considera questo Papa? È una specie di Che Guevara, una specie di compagno... Il compagno Bergoglio. Lei parla apertamente di compagno Bergoglio. Beh, devo dire che anche alcuni da sinistra lo hanno capito. A me fa impressione una cosa, Cruciani. Cioè, lei sta dicendo che il Papa sostanzialmente... dicendo che il Papa a lei non piace, che è una roba che distruggerà la Chiesa. No, dunque, allora, non è questione di non piacere, è questione che distrugge la Chiesa, effettivamente. Cioè che purtroppo si comporta da usurpatore qual è. Come da usurpatore? Scusi, che c'è da usurpatore? Allora, per essere papi bisogna adempiere la funzione di papa, cioè confermare i fratelli. Fa? Faccio uno sforzo, Cruciani, non è difficile, mi segue un minuto solo. Ma è stato scelto dallo Spirito Santo. No, ma vedo che c'è il noto Giusperito della Chiesa Cattolica Perché porterà la distruzione alla Chiesa, secondo lei? Ma no, dai! La Chiesa è già distrutta in gran parte dal Concilio Vaticano II. Vabbè, adesso lasciamo perdere. Lui, sulla sequela di questo Concilio Vaticano II, che è il 1789 della Chiesa, sta moltiplicando gli atti di distruzione, perché uno che si presenta davanti alle persone e prima fa ballare 1200 vescovi, perché si sa che la missione dei vescovi è ballare, no? Poi di fronte ai sodomiti, ma io chi sono per giudicare un sodomita? Ma veramente non li ha chiamato sodomiti, li ha chiamati, non li ha nemmeno chiamati. Non lo so come li ha chiamati, ma insomma, non come lei. Il tecnico sodomita. Dopodiché augura ai musulmani buon Ramadan e quelli ti sterminano tranquilli e contenti come fanno di solito in Africa. E allora? Naturalmente tutto questo negli applausi dell'Occidente, dei corrotti dell'Occidente, che vedendo i tradimenti... Per cui per lei è una disgrazia questo Papa, anche le recenti aperture agli omosessuali, una disgrazia assoluta. No, dunque, io dico una cosa che secondo me ci dà ragione, nel senso che siccome noi siamo convinti che quel Concilio Vaticano II è stato instaurato una nuova religione che non ha niente dunque che va abbattuto, va abbattuto sto Papa, va cancellato, va cambiato. Beh, ma io credo che tutti i papi, pseudopapi per meglio dire, da Giovanni XXIII... Vabbè, allora vabbè, sto parlando di Bergoglio. Ci sarà? Scusi un attimo, anche pazienza un istante. Si è lodato Gesù Cristo, sempre. Caro Parenzo, intanto mandiamo che cosa? La segreteria telefonica della Zanzara, continuate a chiamare. Ci vogliono più delazioni però, più accuse. Poi riprendiamo con Ruggero, segreteria telefonica. Cruciani, non capisci un cazzo. La ragione, Parenzo, è praticamente la trasmissione Focus Economia, no Forum Economia. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Hai capito? Coglione. Parenzo, buon anno si traduce con good anus e non con good ass. Good ass vuol dire buon culo. Impara l'inglese. Ciao. Ma Boldrini, bisogna che parli col Papa, perché se dice Dio o Dea? Perché non è giusto chiamarlo Dio, perché vuol dire che è maschile. Bisogna chiamarla Dea. No, nostro signore, nostra signora, quanto stupida sei tu, Boldrini. Eccellente Cruciani, secondo me se tutti i treni ad alta velocità passassero da sotto il tuo buco del culo, a te delle regole democratiche non te ne fotterebbe una minchia. Cari Cruciani e Parenzo, vi chiamo per fare la mia delazione. La mia delazione è sul mio capo, che non solo mi ha preso per un tirocinio gratuito e non scuce una lira, ma non conosce nemmeno la Zanzara, non conosce neanche la Zanzara. Quindi alle 6:30 mi dice, rimani per un'altra mezz'ora, per un'altra oretta, e io ogni volta mi perdo la Zanzara, cioè mi perdo la battaglia, sangue e merda, E io adesso sono ridotto col podcast, vi dico solo questo, sto ridotto col podcast. Un abbraccio fortissimo. Pronto? Parenzo? Tu magari poi fai delle domande intelligenti, può darsi, però la devi smettere con quella voce stridula di urlare, di fare che mi nervosisci. Piantala di fare lo stronzo. Ciao. Cruciani, fai dare il numero di telefono della figlia della signora, che siamo due siciliani in macchina, che giuro, giuriamo che facciamo infiammare la patonza della figlia della signora, altro che branco di gay. La signora era quella che ieri, anzi l'altro ieri ci ha detto, no, ieri ci ha detto della figlia che non trova marito, poi ha scritto una mail incredibile, poi magari ve la leggiamo, eh. Siamo qui, sei soddisfatto della segreteria telefonica, Parenzo? No. David? Non senti che sto facendo? Che hai fatto? Che stai facendo, scusa? Niente, ho... Maurizio Ruggero... Oh, è caduto nel bagno Ruggero, ho tirato l'acqua per sbaglio. Porca miseria. No, è qua Ruggero, è qua. Ha detto che il Papa... No, è caduto dentro il bagno. Ha detto che il Papa... Ha detto che il Papa è un usurpatore, capito? Dice delle cose vergognose. Ah, beh, certo, perché adesso il metro per capire se uno è Papa veramente è quello che dice Parenzo, che infatti gode di questa buona fama che abbiamo appena sentito adesso. Perfetto. No, però, diciamo, no, ma scusi, ma perché è un usurpatore il Papa? Me lo spieghi, Ruggero, non ho capito. Ma allora, perché è un usurpatore il Papa? Un perché su. Non assolve a quelle che sono le funzioni di Papa. Il Papa deve confermare nella fede i fratelli, non deve dire che la torta, che la fede è come la torta con la guarnizione di crema o scemenze di questo genere, non deve augurare buon pranzo, non deve avere una postura desacralizzata come quella di un vaccaro o di un mungicapro a Versailles, perché questo è il livello ormai di Bergoglio. No, dai, augurare... il livello di Bergoglio è quello di che cosa, scusa Maurizio? Allora, di un vaccaro, di un mungicapra nella reggia di Versailles. Ma perché? Perché? Ma perché un papa deve avere una sacralità? E invece lui che fa? Va troppo in mezzo alla gente? Che fa? No, si svacca completamente, cosa diversa, altro che andare intorno alla gente. Ma in che, c'è? In che senso svacca? Perché non ha nessun aspetto di sacralità. Allora lui rappresenta, o dovrebbe rappresentare, il vicario di Gesù Cristo. Deve confermare la fede ai fratelli. E invece augura buon Ramadan. Dovrebbe convertire le false religioni. E invece... Le accoglie insieme per pregare per la sugli pace, omosessuali tanto. Cosa dovrebbe dire sugli omosessuali? Che dovrebbero convertirsi, dovrebbe dire, anziché dire chi sono io per giudicare, dovrebbe dire guarda figliolo mio, se tu continui così te ne vai all'inferno, datti una regolata. Ma non è mica padre Amort il Papa, su. Infatti è molto di più perché non è un semplice esorcista il Papa, quello vero. Scusa un attimo, Ruggero, ma se qualcuno della tua banda, diciamo, di tradizionalisti, eccetera, sì, facesse un attentato al Papa, tu saresti d'accordo? No, non ci sono attentati da fare. Qui ci sono semplicemente c'è una chiesa da rimettere a posto, da restaurare. Ma chi la rimette a posto? Scusa, Parenzo, rispondi momento, tu, dai, ti prego. Ma tu ti rendi conto la volgarità? Questo signore qui sarebbe anche un cattolico, cioè che sta tradendo il principio fondamentale dell'infallibilità del Papa. Ha detto ha dato del baccaro al Papa, del baccaro, dai, del baccaro, dai. Ma è una cosa incredibile, questo signore che vuole portare la messa in latino. Appunto, è ovvio. Ma io dico una cosa, quando vedo la banda degli anticlericali, vi compreso voi, cioè quelli che non hanno ritegno ad attaccare sempre la Chiesa, che parlano bene di Bergoglio, perché Bertinotti parla bene di Bergoglio? Perché ne parla bene Pannella? Perché ne parlate bene voi? Perché ne parlano bene le varie bagasce televisive che non si convertono mai? Le bagasce televisive? Beh certo, perché sono contente di restare ai loro peccati, perché il Bergoglione... Il Bergoglione, tu dici anche il Bercoglione, il Bercoglione. Il Bergoglione, no? Li conferma in questi peccati, anziché dire quello che un papa dovrebbe dire. E cioè, ragazzi miei, io ho il compito di salvare le anime, dovete mettervi a posto, convertirvi. E invece? No, si parla della rivoluzione del lavoro, della crema, del buon Ramadan, degli immigrati, del papa che è argentino e Dio è brasiliano, intronizza il pallone a Santa Maria Maggiore. Oh, ma dico, ma chi pensate che possa essere preso in giro da sta roba? La propaganda ha un limite, no? E infatti la propaganda televisiva crollerà, però poi si vedrà quella che è la realtà delle cose. E per fare un grande piacere al nostro amico Maurizio Ruggero, tuo amico soprattutto, Maurizio Ruggero della, del Sacrum Imperium, abbiamo invitato Alessia Bergamo. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. La zanzara, bisogna sempre specificare questa cosa qua. Esatto. Cara signora Alessia, cara Alessia direi, tu sai Parenzo che c'è stata l'elezione, grande madrina è stata, se non sbaglio, Alba Parietti. Esatto. Di Miss Trans 2013. Una cosa Miss Trans Italia, non dimentichiamo. Beh, certo, quello non è che pensavamo di aver invitato Miss Trans Mondo, diciamo. La signora chi era prima? La signora, no, ancora non ha fatto l'operazione la signora. Trans non operata. Cioè lei c'ha ancora il pipino tra le gambe. Ancora l'uccello, diciamo. Che meraviglia. Diciamo cosa dice di questo? Se tutti gli ascoltatori vogliono dare un volto a questa voce, basta che mi cercano su Facebook, Alessia Trans Bergamo, o su YouTube. Ma non c'è dubbio. Alessia Trans Bergamo. Capito Ruggero, ho capito chi si capisce. Dagli amici di Bergoglio, chi è Bergoglio? Se ma voi siete c'è? Quelli che lo sostengono col trans, meraviglioso, ma siamo dai, a posto. Ma non che c'entra? Cioè, mi ha offerto una prova schiacciante. Ma che c'entra Bergoglio adesso? Lasciamo perdere il pavo con Alessia Bergamo, Miss Trans 2013. Adesso non penso che ci sia un punto di contatto tra il signor Bergoglio e la signora Alessia Bergamo, su. La misura in cui dice che non si può giudicare chi è sodomita, voglio dire, un trans è pure peggio di un sodomita. Perché? Perché è sodomita e al tempo stesso è anche transeunte, cioè? Non si capisce neanche che cavolo sia, per piacere. ma secondo me lei è andato qualche volta a trans, signor Ruggero. Sì, guarda, io le dirò la verità, Curciani. Conosco più trans io di chiunque altro, per una ragione molto semplice. Perché? Televisivamente parlando, ho collezionato tutti i trans possibili e immaginabili, però ho visto anche quelli che si sono suicidati, sa? Lei non lo dice. Scusi, questo, signora Bergamo, signora Bergamo. Signora Bergamo, risponda poi a Ruggero su queste cose qui. Ai tempi d'oggi ci sono tanti uomini sposati che vanno a trans, solo che giustamente non lo dicono perché il mondo questa cosa te la fa nascondere un po' per vergogna, un po' per privacy, ma ai tempi d'oggi lo vediamo tutti che per le strade è pieno di viados, quindi perché? Perché vuol dire che la gente ci va. Ha capito Ruggero, la gente ci va, signor Ruggero, la gente ci va, dunque c'è un'attrazione nei confronti di questo mondo. L'importanza di avere una predicazione cattolica seria. A lei importa la predicazione cattolica? Ci va, signora, non ci vada. Signora Bergamo, lei crede? È credente? Oddio, io sono credente, sì. Ti è, Ruggero, ti è. Cattolici. Ma credo, l'importante è non osservare la legge di Cristo. Tutti cattolici, tutti credenti. Scusa, uno non può essere credente trans, non ho capito, Ruggero, non ho capito. Anche se la chiesa un attimo Bergamo, siccome Cruciani è intelligente, la domanda chiaramente suggestiva si fa presto a rispondere. Dice il nostro Signore Gesù Cristo: non chi dice Signore Signore ma chi fa la volontà del Padre mio avrà il regno dei cieli. Vuol dire che bisogna osservare la legge morale oltre che credere, perché se uno crede e non osserva la legge morale va all'inferno. Cioè, ma che dovrebbe fare? Se uno è trans, però non è che può diventare non trans. Se uno è trans, non è che può, non c'è niente da fare, è trans, no. A parte che questo è tutto da esaminare la questione. Io dico una cosa: se una persona ha dei problemi o ha dei disturbi, si faccia curare, evidentemente. Lei ha dei disturbi? Femmina e femmina, e mantenga evidentemente quello che è la capitale del proprio stato. Questo argomento. Lei pensa di avere dei disturbi, signora Alessia Berg? Assolutissimamente no, non è una malattia essere trans, non sono neanche dei disturbi, ma è una... È una cosa che ti senti già da piccolo, da bambino. Non è che un giorno mi alzo e ho detto... Lei cosa si sentiva? Che si sentiva da bambino? Ma già da bambino giocavi con le bambole della sorella. Anziché stare con i maschietti a giocare a pallone, stavi con le femminucce a fare i loro giochetti. Più capisci che hai qualcosa che non va, che ti accorgi. Ma la farà l'operazione? Diventare lei? Ragazzo di 14-15 anni. Ma lei ha avuto rapporti con maschi, donne, con tutti naturalmente? Ma io sinceramente ho anche avuto rapporti con femmine, tanto per provare, però non mi piace più di tanto, preferisco l'uomo. Ha capito, Ruggero? Io voglio dire una cosa molto importante. Sì, importantissimo, certo. Per i ragazzi che vogliono fare il cambio sesso, che si sentono, che vogliono diventare trans, ci sono dei consultori transgender. Sì, in Puglia pagano pure. È a Torre del Lago. ok? A Torre del Lago si sa. Fondato da Regina Satariano, che si aiuta sa. Noi sì. trans a diventare... Ha capito, Ruggero, ci sono dei posti dove si può cambiare sesso tranquillamente in Italia. Ma io non ho nessuna intenzione di farlo, per la verità. Se me lo consigli... Traffico. Torno su Parenzo, sei assente da questa discussione, no? No, è che questa augusta conversazione... Cioè, è un figlio di Dio quello che sta parlando lì, Ruggero. Questa signora, questo trans, è un figlio di Dio. Renditi conto, è un prodotto... Un uomo della sinagoga, siccome è un figlio di Dio, bisognerà anche che si converta a sta persona. Se uno gli vuole bene, ma quello sempre, sempre trans rimane. Come fa Parenzo, fa come fa Bergoglio, devi stare davanti così. Allora, a 8:30 abbiamo la discussione tra Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, e Saccomanni. Qui alla Zanzara la discussione invece è tra Alessia Bergamo, Miss Trans 2013, e Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista. Dopo. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy stanco. Merita una riflessione questo. Baila col ritmo bueno, non le importa mucho si no prendo sueno. Occhio che stiamo degenerando, Si no prendo sueno. Volevo capire da Alessia Bergamo, eletta Miss Trans 2013, Alessia Bergamo, se lei ha mai fatto marchette in vita sua, signora Bergamo, lei ha mai battuto per strada, ha mai fatto la prostituta? Allora, mettiamo un punto chiaro su questa situazione. Sì, mettiamolo, certo, il paese... Tante persone associano la parola trans a prostituzione, beh, ma non alcune volte... così. No, chi lo dice questo qua? Chi la lo maggior parte delle volte è così, ma non per tutte, perché ci siamo trans normali che facciamo una vita normale. Ma che lavoro fa? Io faccio spettacoli nei locali di burlesque, di spogliarello, nelle fiere del sesso, però attenzione, sì. che dico fiera del sesso. Che vuol dire fiera del sesso? Più che altro una fiera dell'erotismo, il Misex, sì. il Bergamo Sex, il Love Lab a Roma, l'Adriatica. Non c'è dubbio, ma lei è mai stata con uomini politici? Oddio, mi è capitato. Anni fa avevo anche dichiarato di essere stata con politici e calciatori, però giustamente si dice il peccato ma non i peccatori. E anche con il signor Siffredi, perché lei si è fatta fotografare con il signor Siffredi. Dai, è un amico. Ci siamo dati da fare. Siamo gli altarini. Ci siamo dati da fare anche col signor Siffredi, no? Possiamo stare gli altarini, che se no si avanza in giro. Diciamola tutta, o no? Ma no, dai, diciamo che anche agli uomini a volte gli viene il pallino di andare con delle trans, o politici, o calciatori, o anche spazzini, la qualsiasi persona è uguale. Ruggero, lei non ha mai avuto questa tentazione di andare con i trans? No, mi dispiace, anche perché abbiamo l'enormità di un trans che dice che è normale. Cioè, lui si sente normalmente trans, cioè siamo alla pazzia. Ma che deve fare se uno si sente trans? Scusi un attimo. Ma perché non è normale essere trans, non è una roba normale. Oltretutto si decide il transeunte, cioè o è transeunte e decide di passare finalmente all'altra sponda, inteso come altro sesso. Ma ho capito, ma se facesse oppure, l'operazione... Se fa gli spettacolini vuol dire che ci marcia sul transeunte, allora che cavolo di orrore è tu? Ma infatti, perché orrore? Ma infatti scusa. È un orrore. Capisce perché Cruciani lo capisce. Ma che orrore? Ma quale orrore? Signora Bergamo, è un orrore o no? Ma assolutissimamente, perché fare spettacoli non vuol dire fare la prostituta oppure chiedere soldi in cambio di sesso. Fare spettacoli vuol dire che faccio il mio spettacolo burlesque, mi spoglio, faccio un po' di ma sesso. Qual è il politico che la attira di più? Con chi andrebbe lei di politici italiani, signora Bergamo, Miss Trans? Ma oddio, per me andrebbe bene il qualsiasi, guarda. Come qualsiasi? Che vuol dire qualsiasi? Il politico che la arrapa di più, chi è? Sto scherzando. Ci sarà uno? Casini, a me attirava tantissimo. Casini è bello, è un bell'uomo. Diciamo di sì. E Renzi? Ragazzo, Renzi? No, non è il mio genere. Mi piace l'uomo quarantenne, brizzolato, bel viso, bel fisico. Per cui tra i parlamentari chi c'è? Tra i politici, uomini politici di punta? Con Berlusconi andrebbe? Oddio, io sinceramente tutti i politici di adesso, guarda, fanno schifo. Li metterei tutti dentro un bidone della spazzatura. Vabbè, non esageriamo e adesso. Li metterei tutti, sì. Ma scusi un attimo, Berlusconi? Ma Ma Berlusconi è vecchio, insomma. Ma non si può andare, dice, no? Ma vabbè. Certo, ma ormai c'è la sua marocchina poi lì. Ma che marocchina? Ma quando mai? Ma è italianissima, è napoletana. Vabbè, grazie a tutti. Ciao Ruggero, ciao Bergamo, Parenzo. Buona serata. Parenzo, convertitevi, mettetevi a posto. Ma che convertitevi? Ma come convertitevi? Ma che hai fatto, Parenzo? Ti sei assentato? Ma come ti permette? E non mi facevi intervenire con Ruggero, stavi lì a fa bubuca che è la signora trans. Francesco da Bologna, per chiudere, dai, 20 secondi, veloce. Buonasera, no, niente, brevemente volevo ritornare un attimino. No, ma non c'è da tornare brevemente, mi dica una frase, una cosa, piccola, anche piccola, poi dobbiamo abbandonare. Ma sì, allora auguro buonasera a tutti, figli di Dio, trans e non, dai, buonasera, basta, ciao. A domani 18.30, ciao. Viva i frasi, viva i frasi! Guardi, Luciani, io ho telefonato per dirle, io la voglio vivo, la voglio con le parolacce. La voglio pieno di contraddizioni, mandi a fanculo, dica le parolacce, perché è nel contrasto che c'è la vita, se no è come tutte le altre trasmissioni. E allora che facciamo?